Longanesi presenta I miti greci di Robert Graves. Presentazione di Umberto Albini. Un audiolibro Salani. Legge Edoardo Siravo. Nota per l'ascoltatore. Nei miti greci sono presenti innumerevoli nomi e termini del mondo e della mitologia dell'antica Grecia. In questa trasposizione orale sono state riportate le pronunce classiche maggiormente utilizzate o, laddove non esistano pronunce accreditate, quelle maggiormente plausibili considerando le regole tonali riconosciute. Presentazione di Umberto Albini. Il mito è bisogno di spiegare la realtà, di superare e risolvere una contraddizione della natura, come nasca il primo uomo, per esempio. Il mito è spiegazione di un rito, di un atto formale che corrisponde a esigenze della tribù, l'invocazione della pioggia. Il mito è struttura delle credenze di un gruppo, di un etnos, la condanna dell'incesto, eccetera, eccetera. Ma, come dice la parola, il mito è innanzitutto un racconto. C'è una storia da presentare che ha lati terribili, ma anche spesso risvolti patetici o sorridenti. Ci sono dei personaggi in azione, una trama che si snoda. Il corpus delle leggende degli antichi greci, una piattaforma che ha offerto solido sostegno a gran parte della letteratura occidentale, è stato riproposto più volte, anche per questo motivo, nell'ultimo trentennio in sistemazioni rigorose, di sapiente architettura, di utile consultazione. Tra i vari manuali, il testo di più facile e piacevole leggibilità rimane a tutt'oggi quello curato da Robert Graves. Intanto, perché egli non si limita alla nuda e cruda elencazione dei fatti, ma colma l'ordito con una serie di considerazioni che illuminano dal di dentro protagonisti e comparse che intendono dare spessore morale e psicologico agli avvenimenti. Per evitare relazioni scheletriche, improvvisi mancamenti, Graves cuce le vicende senza spingersi alle ragioni profonde, ma riempiendo i vuoti con interventi e sottolineature dei moti mentali, delle componenti affettive più immediate. Egli rifiuta la narrazione a una sola dimensione, inserisce aggettivi, avverbi, proposizioni secondarie, concessive, avversative, che conferiscono pienezza all'esposizione, le impediscono di essere schematica. Era si chiude in un indispettito ma rassegnato silenzio. Il fiume Enipeo, sebbene divertito e lusingato dalla passione di Tiro, non la incoraggia, la pizia, grida con disgusto, inorridisce, rifiuta freddamente, ordina seccamente. La Sfinge avvilita si getta giù dal monte Ficio, Elio obbedisce, rimpiangendo tuttavia i vecchi tempi. Teucro si reca da Agamennone schiumando per la rabbia. Polidoro si precipita in Tracia, roso dall'ansietà. È un modo di descrivere con occhio moderno. La rigidezza del disegno classico viene sciolta con una visione a corta distanza che cerca di annullare i secoli, quasi si trattasse di gente che si incontra per la strada. L'accento è messo di frequente sul lato più quotidiano e meno ferino. L'aria che si respira ha qualcosa di domestico. Sisifo ha un altro trucco in mente. Odisseo si congeda da Calipso con un bacio e parte col vento in poppa. Non è assente però l'aspetto cruento, non si sorvola sulle cose più inquietanti, gli eventi spaventosi vengono scanditi come tali. Nella linea di un racconto che va avanti per conto proprio, la gloria e la debolezza, l'orrore e il ridicolo non sono necessariamente separati. La favolistica ha molte facce, improvvisi passaggi al discorso diretto, che assurdità, gridò Era, o addirittura inizi col discorso diretto, alziamo subito le vele, disse Menelao, ed è l'apertura di un capitolo, provvedono ad animare il discorso, al quale crea una sua autenticità l'attenzione agli spazi, al contesto topografico in cui le varie figure si muovono. Il secondo merito di Graves è di avere saputo strutturare la materia così da escludere l'accumulo casuale di spezzoni, da assicurare all'insieme una logica interna. Non ci sono riassunti pasticciati, troppo carichi di alternative. Si sa che il mito è confuso e ramificato, ricco di incoerenze e superfetazioni. Viene privilegiata una redazione in maniera che il lettore non debba perdere il filo, non si aggiri smarrito in un labirinto. Ma la chiarezza non va a scapito della completezza. Graves colma lacune, somma con bravura combinatoria, appoggiandosi a autori diversi, molteplici contributi, traccia un quadro ampio ed esauriente. e si sbarazza del ragguaglio che costituisce un intralcio con un formulario non scevro talvolta di umorismo. Altri dicono, taluni dicono, tuttavia, secondo un'altra leggenda, secondo un'altra versione, taluni si rifiutano di ammettere, taluni arrivano a negare, queste però sono favole. Rispetta così la necessità dell'informazione, spiega come sono andate le cose e accenna con discrezione le varianti, introduce la tradizione diversa, sia che la stacchi e subordini gerarchicamente, sia che la incastoni di sfuggita. Ogni volta Graves riesce a fornire un episodio autonomo e nello stesso tempo dà l'idea che nella grande famiglia del mito tutto si interseca. Anche questa è maestria. Tenere separata ogni avventura e fornire le coordinate per cui questa avventura si colloca in un ciclo. Ma Graves evita la sistemazione per soggetto. Olimpo, eroi, amore, morte e così via. Offre una sequenza intesa a prospettare lo svolgimento diacronico dagli antenati ai nipoti. Il rispetto concerne meno i luoghi, cielo, mare e terra, che i tempi, sicché partendo dalla cosmogonia si arriva agli uomini, dagli eroi arcaici e loro discendenti, si perviene ai personaggi delle grandi saghe epiche. Il recupero dei numerosi tasselli comunque appartenenti a una storia e combinabili o meno significa dimestichezza con le fonti. Graves conosce gli scrittori da cui ricava le sue sintesi, riscrive la cronaca di un tempo antico, rivisitandone gli archivi letterari e in qualche caso geografici e storici, con paziente e accurato controllo. Lo dimostra il ricorso al materiale tragico. Le tracce dei grandi drammaturghi sono seguite assai da vicino, si avverte quasi l'eco delle loro parole. Graves precisa che la sentinella sul tetto della reggia di Micene trascorse un anno intero attendendo il ritorno di Agamennone, appoggiata ai gomiti come un cane. Ricorda che Egisto ubriaco gettava pietre contro la tomba di Agamennone, sfidando Oreste a comparirgli davanti. Si rifà la profezia di Eracle a Deianira. Entro 15 mesi sarò morto, o mi sarà concesso di trascorrere in completa tranquillità il resto della mia vita. Specifica che Aiace lega un ariete a una colonna, lo sferza con le redini di un cavallo, chiamandolo Odisseo, e gli urla contro ingiurie di ogni genere. Eschilo, Sofocle e Euripide consegnano dunque a Graves non solo intelaiature e ossature, ma suggeriscono spesso immagini pennellate e ravvivanti il particolare destinato a incidersi. A Graves non interessa come un poeta renda attivo, operante un mito, o che logica ne ricavi, ma ne accetta tutti gli spunti narrativi che gli tornano comodi, che gli permettono di non tediare il pubblico. Non pretende voli creativi, non scende sullo stesso terreno dei grandi, ma si rifà a essi per un'intelligente e astuta didattica. Con altrettanta abilità ricorre agli eruditi, ai dotti antichi, cominciando da Pausania. È evidente che ne ha avuto sotto gli occhi la Periegesi, la guida della Grecia, indispensabile tra l'altro per l'ubicazione degli eventi mitici. Graves individua ed enuclea l'incastro da inserire a pieno diritto nella ricostruzione, l'elemento che fa spicco, l'aggiunta efficace. Parlando di Glauco, il figlio di Bellerofonte e delle sue cavalle, specifica come a Olimpia due ombre turbino gli aurighi e le corse, quella appunto di Glauco e l'ombra di un eroe non meno noto, Mirtilo. Sui pericolosi fantasmi di Olimpia e la loro discussa identità disserta Pausania, dal quale Graves ricava anche la notizia di Oreste che si mozzica un dito dalla disperazione tentando di placare le nere Erinni. Sempre Pausania gli permette il tocco sentimentale su Telamone, che dall'alto di una collinetta, presso Salamina, assiste alla partenza delle navi che conducono a Troia i suoi figli. Graves si fa scrupolo di citare i suoi testimoni. Ogni racconto è corredato alla fine da una messe di rinvii, delle indicazioni dell'autore o degli autori, da cui proviene un certo dato. Racconto, articolato in una nitida successione di paragrafi, fonti, note di commento. Se si immerge con passione nel mito, il narratore ha al tempo stesso lo sguardo attento alle cause e alle ragioni di esso. Non lascia il lettore libero di escogitarsi una cifra, lo mette lui stesso sulla strada. Ognuno dei 171 capitoli ha la sua appendice esegetica. La base più suggestiva è naturalmente rappresentata dalle indagini antropologiche e folcloristiche di Fraser. Di continuo saltano fuori l'arcaico conflitto tra re sacro e suo successore, i mutevoli rapporti tra la regina e i suoi amanti, i costumi agrari stagionali. Ma c'è anche lo svelamento sociopolitico, l'Europa prima degli indoeuropei, l'Europa dopo l'invasione degli arii. Graves, per capire ciò che il mito ha deformato, riappoggia, per così dire, i piedi per terra. Parla di abitudini militari, scorrerie di pirati, di controversie, conflitti, armistizi, di colonizzazioni, fondazioni di regni, rivalità di re, di una confederazione commerciale da abbattere, eccetera. Infine avanza spesso l'ipotesi che un'immagine abbia fatto scattare il mito. Ricorre all'iconografia accertabile, come la ceramica, e a una iconografia plausibile, ma non verificabile, creata dalla sua fantasiosa immaginazione. Egli postula sacri affreschi, raffigurazioni primitive, magari con la cautela di un forse, pare, probabilmente, e talvolta con dovizia di riferimenti nell'invenzione, come per la leggenda di Tereo. Sono pagine tutt'altro che aride e monotone. Provano come l'argomento tocchi a fondo Graves. Egli ha un atteggiamento tra affettuoso e possessivo nei confronti dei suoi classici, confidenzialmente orgoglioso. Muove loro rimproveri quando i conti non tornano. La leggenda è stata narrata in modo erroneo da Virgilio. I greci non avrebbero dovuto sbagliare in questo caso. Ma ne sottolinea anche i meriti. Ovidio commette raramente errori mitologici. Plutarco ha limpidi racconti. Li contrappone ai moderni. Plutarco, pur narrando che l'ippopotamo uccise il genitore e violentò la genitrice, non ne avrebbe mai dedotto che ogni uomo ha il complesso dell'ippopotamo. Com'è chiaro da questa battuta, Graves respinge, nell'esplorazione del mito greco, le spiegazioni della psicoanalisi, l'inconscio, gli archetipi collettivi. È ostile a Freud, Jung, Kereny. È un atteggiamento da spigliato e divertito ricreatore di storie, e fa tutt'uno con la capacità di prospettare dipinti, quadri come stimolo al mitografo per scrivere, con la tendenza a ripercorrere una vicenda rimanendo legato al concreto, senza incursioni nel misterioso, nelle dimensioni oscure e torbide, e, perché no, col gusto di etimologie indiscutibilmente estrose. L'ostilità a un determinato tipo di dottrina non è un fatto di superficialità o di incultura, nasce da un'altra visione del mondo. È il preciso rifiuto di un certo parametro di interpretazione. Graves rifugge dal riversare su forze ignote, angosciose, terribili, la responsabilità dei protagonisti dei suoi racconti. Alle spalle dell'individuo vede, come genesi remota, la volontà del nume. Non risponderà a tutte le domande di oggi, ma ha il gran pregio di scrivere in modo brillante e spiritoso. Di fronte all'abituale trattatistica abbastanza noiosa, agli invischiamenti nel complicato, un libro come il suo si sfoglia e compulsa con utilità, ma anche molto volentieri. Umberto Albini. Introduzione. Gli emissari medievali della Chiesa Cattolica portarono in Gran Bretagna, oltre all'intero corpus dei testi di storia sacra, un sistema di studi universitari basato sui classici latini e greci. Le leggende locali di Re Artù, di Guy Warwick, di Robin Hood e di Re Lear furono considerate di carattere popolare, mentre fino ai tempi dei primi Tudor il clero e le classi colte citarono più volentieri Ovidio, Virgilio e i compendi scolastici della guerra troiana. La letteratura inglese dal XVI al XIX secolo non può dunque essere compresa a fondo se non alla luce della mitologia. Ma in seguito i classici persero tanto terreno nei licei e nelle università che oggigiorno una persona colta non è tenuta a sapere, ad esempio, chi fossero Deucalione, Pelope, Dedalo, Enone, Laocoonte o Antigone. Di questi miti, anzi, si conoscono per lo più versioni favolistiche come quelle degli Heroes di Kingsley o delle Tanglewood Tales di Hawthorne. A occhio e croce può sembrare che ciò non abbia molta importanza, giacché da 2000 anni si parla dei miti come di fantasie chimeriche e bizzarre, poetica eredità del pensiero greco ai suoi albori, che la Chiesa naturalmente scredita per mettere in luce la maggiore importanza spirituale della Bibbia. Non si può tuttavia sottovalutare questi miti se si studiano la storia, la religione e la sociologia dell'antica Europa. Chimerico è un aggettivo derivato dal nome chimera, che significa capra. 4000 anni fa la chimera non doveva certo parere più bizzarra di un qualsiasi emblema araldico, religioso o commerciale d'oggigiorno. Era un animale composito, con la testa di leone, così la descrive Omero, il corpo di capra e la coda di serpente. È stata scoperta una chimera scolpita sulle pareti del tempio ittita di Carchemish e, come altri animali compositi, si pensi alla sfinge e all'unicorno, essa doveva essere in origine un simbolo del calendario. Ciascuna delle sue parti rappresentava una stagione del sacro anno della regina del cielo. Secondo Diodoro Siculo, le tre corde della sacra lira, ricavata da un guscio di tartaruga, avevano lo stesso significato. Il Nilsson, nel suo Primitive Time Reckoning, parla appunto di questo antico anno suddiviso in tre stagioni. Ciò non di meno, soltanto una piccola parte dell'enorme e disorganizzato corpus della mitologia greca, che comprende elementi importati da Creta, dall'Egitto, dalla Palestina, dalla Frigia, da Babilonia e da altri luoghi ancora, può essere classificata con la chimera come mito vero e proprio. A questa definizione corrisponde infatti la riduzione narrativa dei mimi rituali eseguiti nelle feste pubbliche e in molti casi riprodotti sulle pareti dei templi, sui vasi, sigilli, tazze, specchi, cofani, scudi, tappezzerie e così via. La chimera e gli altri animali simboleggianti il calendario avevano probabilmente una parte di primo piano in tali rappresentazioni drammatiche che fornirono argomento a un'antichissima tradizione orale e iconografica e divennero la fonte più autorevole delle istituzioni religiose di ogni tribù, clan o città. Argomento dei mimi erano arcaiche fatture che dovevano garantire la fertilità della terra o la prosperità dei regni governati da una regina o da un re. I primi, a quanto pare, precedettero nel tempo i secondi in tutte le regioni di lingua greca e che variavano a seconda delle circostanze. Nel saggio di Luciano sulla danza troviamo elencati moltissimi mimi rituali che si eseguivano nel secondo secolo avanti Cristo e Pausania, descrivendo gli affreschi del Tempio di Delfi e le decorazioni del cofano di Cipselo, ci fa supporre che il ricordo di una grande quantità di episodi mitologici e eterogenei, di cui ora non rimane traccia, fosse ancora vivo allora. Il mito vero e proprio non deve essere confuso con 1. L'allegoria filosofica come la cosmogonia di Esiodo, 2. La spiegazione eziologica di miti di cui non si afferrava più il significato, come quello di Admeto che aggioga al suo carro un leone e un cinghiale, 3. La satira o la parodia come la descrizione dell'Atlantide fatta da Sileno. 4. La favola sentimentale come la storia di Narciso e di Eco. 5. L'episodio storico arricchito di elementi favolistici come l'avventura di Arione e del Delfino. 6. Episodi romantici di tipo trovadorico come la storia di Cefalo e Procri. 7. La propaganda politica che affiora nella storia di Teseo e della federalizzazione dell'Attica. 8. La leggenda morale come la storia della collana di Erifile. 9. L'aneddoto umoristico come la farsa di Eracle, Onfale e Pan. 10. Il melodramma teatrale come la storia di Testore e delle sue figlie. 11. La saga eroica, che è l'argomento principale dell'Iliade. 12. Il romanzo realistico, come la visita di Odisseo ai Feaci. Possiamo, tuttavia, trovare elementi mitici genuini incastonati nelle leggende meno attendibili e raramente un solo autore sa darci la versione più completa e chiarificatrice di un singolo mito. Inoltre, chi cerca di risalire alla forma originale di tale mito non deve supporre che la più antica delle fonti scritte sia la più autorevole. Spesso, ad esempio, il giocoso Callimaco dell'epoca alessandrina o il frivolo Ovidio dell'epoca augustea o l'arido bizantino Zetze ci danno di un certo mito una versione palesemente più antica di quella di Esiodo o dei tragediografi greci. E lo Excidium Troie del XIII secolo è, in talune sue parti, più attendibile dell'Iliade. Quando si voglia interpretare il significato di un'opera narrativa mitologica o pseudo-mitologica, bisogna sempre esaminare con la massima attenzione i nomi, le origini tribali e il particolare destino dei personaggi descritti, per poi risalire alla forma primitiva di dramma rituale. Nel corso di tale processo, può capitare che elementi secondari ci suggeriscano analogie con un altro mito pervenutoci sotto tutt'altro schema aneddotico e gettino nuova luce su entrambi. Uno studio della mitologia greca deve iniziare dall'esame della situazione politica e religiosa dell'Europa prima dell'invasione degli Ariani. In tutta l'Europa neolitica, a giudicare dai miti sopravvissuti, le credenze religiose erano molto omogenee e tutte basate sul culto di una dea madre dai molti appellativi, venerata anche in Siria e in Libia. L'antica Europa non aveva dei. La grande dea era considerata immortale, immutabile e onnipotente, e il concetto della paternità non era stato introdotto nel pensiero religioso. La dea si sceglieva degli amanti per soddisfare il suo piacere e non per dare un padre ai propri figli. Gli uomini temevano la matriarca, la riverivano e le obbedivano. Il focolare che essa alimentava in una grotta o in una capanna fu il loro primo centro sociale e la maternità il loro primo mistero. Ecco perché la prima vittima di un sacrificio pubblico greco veniva sempre offerta a Estia del focolare. Il bianco simulacro aniconico della dea, il più diffuso dei suoi emblemi, che troviamo a Delfi come Onfalos o Ombelico, rappresentava forse in origine il bianco cumulo di cenere ammucchiato sopra la brace viva, che è il sistema più facile per conservare acceso il fuoco senza fumo. In seguito fu identificato col tumulo sbiancato a calce, sotto il quale era sepolta la bambola del grano che a primavera sarebbe risorta come germoglio, e coi tumuli di conchiglie marine o di quarzo o di marmo bianco che coprivano le tombe dei re defunti. Non soltanto la luna, ma a giudicare da Emera in Grecia e da Graine in Irlanda, anche il sole era uno dei simboli celesti della dea. Nei miti greci primitivi, tuttavia, il sole è meno importante della luna, che ispira un terrore superstizioso, non attenua la sua luce quando l'anno volge al termine e ha il potere di concedere o negare le benefiche piogge ai campi. Le tre fasi della luna si riflettevano nelle tre fasi della vita della matriarca: vergine, ninfa, nubile e vegliarda. In seguito, giacché l'annuale corso del sole ricordava anche il crescere e il decrescere delle sue forze fisiche, la primavera come vergine, l'estate come ninfa, l'inverno come vegliarda, la dea fu identificata con i mutamenti stagionali che segnavano la vita delle piante e degli animali, e dunque con la madre terra, che all'inizio dell'anno vegetativo produce soltanto foglie e boccioli, poi fiori e frutta, e infine si isterilisce. La dea fu identificata poi con un'altra triade: la vergine dell'aria, la ninfa della terra e la vegliarda del mondo sotterraneo, personificate rispettivamente da Selene, Afrodite ed Ecate. Queste mistiche analogie contribuirono a dare un carattere sacro al numero 3, e la dea luna fu simboleggiata dal numero 9, quando ciascuna delle sue tre persone, vergine, ninfa e vegliarda, si manifestò in triade per dimostrare la sua divinità. I fedeli della dea non scordarono mai del tutto che essa era una dea sola e non tre dee, ma nell'epoca classica il santuario di Stinfalo in Arcadia era uno dei pochi dove tutte e tre le persone della triade portassero lo stesso nome, Era. Quando il rapporto tra il coito e la gravidanza fu ufficialmente stabilito, e questa svolta di capitale importanza per la religione si rispecchia nel mito ittita di Appu il Sempliciotto, la posizione dell'uomo migliorò sensibilmente e il merito di fecondare le donne non fu più attribuito ai fiumi e ai venti. La ninfa tribale, pare, si sceglieva ogni anno tra i giovanotti del suo entourage un amante, il re che sarebbe stato sacrificato alla fine dell'anno e che diveniva così un simbolo della fertilità più che uno strumento del piacere della ninfa. Il suo sangue, sprizzando tutt'attorno, avrebbe reso fecondi i campi, gli alberi e le greggi, e le sue carni erano fatte a pezzi e divorate crude dalle ninfe compagne della regina, sacerdotesse che portavano maschere di cagne, di giumente o di scrofe. Questa usanza fu poi modificata. Il re moriva quando la forza del sole, con il quale il re si identificava, cominciava a declinare a mezza estate, e un suo gemello, supposto gemello, diventava allora l'amante della regina per essere a sua volta sacrificato a metà inverno, reincarnandosi, come ricompensa, in un serpente oracolare. Questi principi consorti potevano esercitare il potere esecutivo soltanto quando parlavano in nome della regina e ne indossavano le magiche vesti. Così si svilupparono i regni e, benché il sole divenisse simbolo della fecondità maschile, un tempo la vita del re fu identificata con il suo corso stagionale, tali regni rimasero sempre sotto la tutela della luna, così come il re rimase sempre sotto la tutela della regina, almeno in teoria, anche quando il periodo matriarcale era stato superato. Così le streghe della Tessaglia, una regione conservatrice, solevano minacciare il sole in nome della luna, dicendo che l'avrebbero fatto inghiottire dalle tenebre eterne. Anche quando le donne erano sovrane in materia religiosa, gli uomini potevano tuttavia agire liberamente in certi campi, senza controllo da parte femminile, sebbene si possa supporre che essi adottassero certe caratteristiche del sesso debole, in seguito considerate peculiari dell'uomo. Potevano cacciare, pescare, custodire greggi e armenti e difendere la tribù dagli invasori, purché non infrangessero le leggi matriarcali. Le leggi che stabilivano chi doveva essere eletto comandante in capo variavano a seconda dei matriarcati. In certi casi veniva eletto lo zio materno della regina o suo fratello o il figlio della sua zia materna. La società matrilineare più primitiva che esista ancora oggigiorno è quella dei Nayars nell'India meridionale, dove le principesse, benché sposate a mariti fanciulli dai quali divorziano subito, hanno figli da vari amanti che scelgono senza troppo curarsi del rango, e le principesse di varie tribù matriarcali dell'Africa occidentale sposano stranieri o persone del popolo. Pare che anche le principesse dell'antica Grecia si scegliessero volentieri gli amanti tra gli schiavi, sempre che le 100 case di Locri e Pizzefiria non costituiscano un'eccezione. Il tempo fu dapprima suddiviso a seconda delle lunazioni e tutte le cerimonie più importanti venivano celebrate in corrispondenza di determinate fasi della luna. I solstizi e gli equinozi non erano stati determinati con precisione e li si faceva coincidere approssimativamente con la luna piena più vicina. Il numero 7 acquistò un particolare carattere sacro perché il re moriva durante la 7ª luna piena che seguiva il giorno più corto. Anche quando, dopo attente osservazioni astronomiche, l'anno solare fu calcolato in 364 giorni con qualche ora di differenza, lo si divise in mesi, cioè in cieli lunari, anziché in frazioni dell'anno solare. Questi mesi erano di 28 giorni, anche il 28 era un numero sacro, perché la luna era considerata come una donna il cui ciclo mestruale è normalmente di 28 giorni. La settimana di 7 giorni era l'unità del mese lunare e le caratteristiche di ciascun giorno furono dedotte, pare, dalle caratteristiche attribuite al mese corrispondente della vita del re sacro. Questo sistema portò a una identificazione ancora più stretta della donna con la luna e, poiché l'anno di 364 giorni è esattamente divisibile per 28, l'annuale succedersi delle feste popolari poteva essere regolato dal succedersi dei mesi. 1000 anni dopo l'adozione del calendario giuliano, l'anno di 13 mesi sopravviveva ancora come tradizione religiosa tra il volgo europeo. Infatti Robin Hood, che visse al tempo di Edoardo II, esclama in una ballata che celebra la festa di Calen di Maggio: «How many merry moons be in the year? There are 13, I say». Un revisore Tudor corresse poi il 13 in 12. «There are 12, I say». Il 13, numero del mese in cui muore il sole, gode ancora di pessima fama tra i superstiziosi. I giorni della settimana erano affidati alla tutela dei titani, geni del sole, della luna e di 5 pianeti scoperti in seguito, e si erano responsabili dei corpi celesti. Questo sistema si sviluppò probabilmente nella Sumeria matriarcale. Il sole passava dunque attraverso 13 fasi mensili che iniziavano col solstizio d'inverno, quando i giorni cominciano ad allungarsi dopo il lungo declino autunnale. L'anno siderio aveva un giorno in eccedenza che fu intercalato fra il 13° e il 1° mese e divenne il più importante, poiché in quel giorno appunto la ninfa tribale sceglieva il suo divino paredro, di solito il vincitore di una gara di lotta o di corsa o di tiro all'arco. Questo calendario primitivo subì delle modificazioni. In certe regioni il giorno eccedente non fu intercalato dopo il solstizio d'inverno, ma in occasione di un diverso capodanno. alla Candelora, ad esempio, quando si manifestano i primi segni della primavera, o all'equinozio di primavera, quando si supponeva che il sole giungesse a piena maturità, o a mezza estate, o al sorgere di Sirio, quando il Nilo inondava la pianura egiziana, o all'equinozio d'autunno, quando cadono le prime piogge. Nell'antica mitologia greca si riflettono soprattutto quei mutevoli rapporti tra la regina e i suoi amanti, che iniziano con il sacrificio annuale o biennale del divino Paredro e terminano, all'epoca in cui l'Iliade fu composta e i re si vantarono «siamo migliori dei nostri padri», col tramonto del matriarcato. Ancora oggi, studiando i costumi dei popoli africani, possiamo ricostruire via via i vari stadi di questo processo evolutivo. Molti miti greci rispecchiano la storia politica e religiosa del paese. Bellerofonte doma Pegaso alato e uccide la chimera. Perseo, in una variante della medesima leggenda, vola nell'aria e decapita la madre di Pegaso, la Gorgone Medusa, così come Marduk, l'eroe babilonese, uccide il mostro marino Tiamat, dea del mare. La forma corretta del nome Perseo è probabilmente Ptaerseus, il distruttore. Egli non fu, come suppose il professor Kereni, un archetipo della figura della morte, ma rappresentava forse gli elleni patriarcali che invasero la Grecia e l'Asia Minore all'inizio del secondo millennio prima di Cristo e sfidarono la potenza della triplice dea. Pegaso l'era sacro perché il cavallo, con i suoi zoccoli a forma di mezzaluna, figurava sempre nelle cerimonie propiziatorie. Le sue ali erano simbolo di una natura celeste piuttosto che della velocità. Jane Harrison ha messo in luce il fatto che la Medusa era un tempo la dea stessa che si nascondeva dietro la profilattica maschera della Gorgone, un volto orrendo inteso a sgomentare coloro che volessero violare i misteri. Perseo che decapita Medusa ricorda gli elleni che occuparono i principali templi della dea, strapparono alle sue sacerdotesse le maschere di Gorgoni e si appropriarono dei sacri cavalli. Una primitiva immagine della dea con la testa di Gorgone e il corpo di cavalla è stata ritrovata in Beozia. Bellerofonte, il doppione di Perseo che uccide la chimera Alicia, ricorda gli elleni che annullarono il calendario di Medusa e lo sostituirono con un altro. E ancora Apollo che uccide il pitone a Delfi pare ricordi gli Achei che conquistarono il santuario della madre terra cretese. E lo stesso dicasi del tentativo compiuto da Apollo di violare Daphne, che era subito trasformò in Lauro. Gli psicologi freudiani citano questo mito come il simbolo dell'istintivo orrore delle fanciulle per l'atto sessuale. Tuttavia Daphne non era affatto una vergine sgomenta. Il suo nome è una forma contratta di Daphoene, la sanguinaria, cioè la dea in preda al furore orgiastico, le cui sacerdotesse, le Menadi, si inebriavano masticando foglie di alloro e in periodo di luna piena assaltavano periodicamente i viandanti e facevano a pezzi bambini o piccoli animali. Le foglie di alloro contengono cianuro di potassio. I collegi sacerdotali di codeste Menadi furono soppressi dagli elleni e soltanto i sacri boschi di alloro restarono a dimostrare che Daphoene era anticamente signora di quei templi. In Grecia, fino ai tempi dell'occupazione romana, masticare alloro era tabù per tutti fuorché per la sacerdotessa pitica che profetizzava a Delfi in nome di Apollo. Le invasioni elleniche all'inizio del secondo millennio prima di Cristo, conosciute come invasioni eolica e ionica, furono meno rovinose delle invasioni achee e doriche che le seguirono. Piccoli gruppi di mandriani armati, devoti alla trinità maschile ariana, Indra, Mitra e Varuna, attraversarono la barriera naturale del Monte Otri e si infiltrarono abbastanza pacificamente tra le popolazioni pre-elleniche in Tessaglia e nella Grecia centrale. Essi furono accettati come figli della dea locale e le fornirono i divini puledri. L'aristocrazia militare maschile si accordò così con la teocrazia femminile non soltanto in Grecia, ma anche in Creta, dove gli elleni si installarono stabilmente, diffondendo poi la civiltà cretese ad Atene e nel Peloponneso. In tutte le regioni bagnate dall'Egeo si parlava ormai il greco e ai tempi di Erodoto soltanto un oracolo si esprimeva in lingua preellenica. Il re agiva come rappresentante di Zeus o di Posidone o di Apollo e assumeva uno dei loro nomi, sebbene per molti secoli persino Zeus fosse considerato soltanto un semidio e non una immortale divinità olimpica. Tutti gli antichi miti che parlano degli amori di dei e di ninfe si riferiscono evidentemente ai matrimoni tra i capitani ellenici e le locali sacerdotesse della Luna, matrimoni cui si opponeva rabbiosamente Era, che personificava l'atteggiamento conservatore. Quando si cominciò a considerare troppo breve il periodo di regno concesso al divino Paredro, l'anno di 13 mesi fu prolungato nel grande anno di 100 lunazioni, nell'ultima delle quali l'anno solare e l'anno lunare coincidevano approssimativamente. Ma poiché bisognava pur sempre fertilizzare i campi, il re acconsentì a subire ogni anno una morte apparente e a cedere il trono per un solo giorno, il giorno intercalato che non apparteneva al sacro anno siderio, al sostituto re fanciullo o interrex, che moriva al termine del giorno stesso e il cui sangue veniva spruzzato sui campi. Il re sacro regnava dunque per l'intero grande anno e il suo successore fungeva da luogotenente, oppure regnavano ambedue ad anni alterni, oppure la regina divideva tra loro il regno ed essi regnavano contemporaneamente. Il re sostituiva la regina in molte funzioni sacre e allora indossava le sue vesti, si applicava segni finti, prendeva a prestito l'ascia lunare, simbolo di potere, e celebrava anche i riti magici per propiziare le piogge. La morte rituale del re variava a seconda delle circostanze. Egli veniva fatto a pezzi da donne invasate, trafitto da una lancia, atterrato a colpi d'ascia, colpito al tallone da una freccia avvelenata, gettato in mare dall'alto di una scogliera, bruciato su una pira, annegato in una fonte o travolto da un cocchio. Ma doveva morire. Si giunse a una nuova fase, quando i fanciulli furono sostituiti da animali sull'altare del sacrificio, e il re rifiutò di morire al termine del suo regno. Dividendo il reame in tre parti e attribuendone due ai suoi successori, egli avrebbe potuto regnare per un altro grande anno, e gli serviva la scusa che nuove ricerche astronomiche avevano stabilito una più esatta coincidenza tra l'anno solare e l'anno lunare ogni 19 anni, ossia 235 lunazioni. Il grande anno divenne così il grandissimo anno. Attraverso questi stadi successivi, che si riflettono in numerosi miti, il re sacro continuò a mantenere la sua posizione soltanto grazie al matrimonio con la ninfa tribale, che veniva eletta o per aver vinto una gara di corsa tra coetanee o per diritto di ultimogenitura, vale a dire perché era la più giovane figlia nubile del ramo cadetto della famiglia. La successione al trono rimase così matrilineare, come accadde teoricamente anche in Egitto, e il re sacro e il suo successore erano dunque scelti al di fuori della famiglia reale femminile, finché qualche re audace decise di commettere incesto con l'ereditiera, che veniva considerata sua figlia, e acquistò così un nuovo diritto al trono quando il suo regno volgeva al termine. Le invasioni achee alla fine del XIII secolo avanti Cristo indebolirono notevolmente la tradizione matrilineare. Pare che il re riuscisse allora a regnare a vita, e quando arrivarono i Dori, verso la fine del secondo millennio, la successione patriarcale divenne la regola. Il principe non abbandonava più la casa paterna quando sposava una principessa straniera, ma questa invece seguiva il marito, come fece Penelope con Odisseo. Anche la genealogia divenne patrilineare, sebbene un episodio citato dallo pseudo Erodoto nella vita di Omero dimostri che, quando già la apatoria o festa della parentela maschile aveva sostituito la festa della parentela femminile, i riti comprendevano ancora sacrifici alla dea madre ai quali gli uomini non potevano assistere. Il sistema religioso olimpico fu poi accettato come un compromesso tra la tradizione ellenica e quella preellenica. Si ebbe così una divina famiglia di sei dei e sei dee, capeggiata da Zeus e da Era, e che formava un concilio divino alla maniera babilonese. Ma dopo una rivolta della popolazione preellenica, descritta nell'Iliade come una cospirazione contro Zeus, Era fu subordinata al marito. Atena si dichiarò tutta per il padre e Dioniso, spodestando Estia, assicurò alle divinità maschili la preponderanza del concilio. Tuttavia le dee, sia pure in minoranza, non furono mai estromesse come accadde a Gerusalemme, perché Omero ed Esiodo avevano attribuito a ogni divinità i titoli a essa spettanti, distinto le loro zone di influenza ed elencato i loro particolari poteri. E data l'autorità dei due poeti, le loro parole non si potevano mettere in dubbio. Inoltre il sistema di riunire tutte le donne di sangue reale sotto il controllo del re, scoraggiando così ogni tentativo di estranei di giungere al trono per via matrilineare, che fu adottato a Roma con l'istituzione del Collegio delle Vestali e in Palestina quando re Davide creò il suo harem, non si diffuse mai in Grecia. La discendenza, la successione e l'eredità patrilineare scoraggiano sempre più i creatori di miti. Inizia la leggenda storica che ben presto tramonta alla luce della storia autentica. Le vite di personaggi come Eracle, Dedalo, Tiresia e Fineo si prolungano per parecchie generazioni perché i loro nomi erano appellativi e non si riferivano a singoli eroi. Tuttavia i miti, pur collimando difficilmente con la cronologia, insistono sempre su un determinato punto della tradizione, per quanto il senso ne sia stato deformato dalla narrazione orale. Prendete ad esempio la confusa storia del sogno di Eaco, nel quale le formiche, cadendo da una quercia oracolare, si trasformano in uomini e colonizzano l'isola di Egina dopo che Era ne aveva distrutto la popolazione. Qui i particolari più interessanti sono che la quercia era nata da una ghianda di Dodona, che le formiche erano tessaliche e che Eaco era nipote del fiume Asopo. Questi elementi concordano nel darci un conciso rapporto delle immigrazioni in Egina verso la fine del secondo millennio avanti Cristo. Benché i miti greci seguano quasi sempre un medesimo schema, tutte le interpretazioni particolareggiate delle singole leggende saranno suscettibili di revisione finché gli archeologi non ci avranno fornito un quadro più esatto dei movimenti delle tribù in Grecia con le relative date. Tuttavia il sistema di analisi, che poggia su basi storiche e antropologiche, è l'unico accettabile. La teoria secondo la quale la chimera, la sfinge, la gorgone, i centauri, i satiri e così via siano cieche manifestazioni dell'inconscio collettivo junghiano, cui non si può né si potrà mai attribuire un preciso significato, è del tutto infondata. L'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro in Grecia non furono l'infanzia dell'umanità, come il dottor Jung immagina. Il fatto che Zeus inghiottisse Meti, ad esempio, e desse poi alla luce Atena attraverso un buco della testa, non è una fantasia irreprimibile, ma un ingegnoso dogma teologico che include almeno tre interpretazioni contrastanti. Prima, Atena era nata per partenogenesi da Meti, vale a dire era la più giovane persona della Trinità che faceva capo a Meti, dea della saggezza. Seconda, Zeus inghiottì Meti, vale a dire gli Achei soppressero il suo culto e attribuirono il monopolio della saggezza a Zeus come dio patriarcale. Terza, Atena era figlia di Zeus, vale a dire gli Achei fedeli a Zeus risparmiarono i templi di Atena purché i suoi devoti accettassero la suprema sovranità di Zeus. La leggenda di Zeus che inghiotte Meti, con quel che segue, fu probabilmente illustrata sulle pareti di un tempio, e come l'erotico Dioniso, un tempo nato per partenogenesi da Semele, nacque da una coscia di Zeus, così l'intellettuale Atena nacque dalla sua testa. Se taluni miti ci appaiono a prima vista confusi e sconcertanti, è perché il mitografo ha deliberatamente o incidentalmente errato nell'interpretare un sacro affresco o un dramma rituale. Ho chiamato tale processo iconotropia e se ne possono trovare esempi in tutte le letterature sacre che abbiano codificato la radicale riforma di antiche fedi. I miti greci pullulano di iconotropie. I tavolini a tre gambe di Efesto, ad esempio, che corrono da soli alle assemblee degli dei e poi tornano al loro posto, non sono, come suppone maliziosamente il dottor Charles Seltman nel suo 12 Olympian Gods, anticipazioni dell'automobile, ma gli aurei dischi del sole con tre gambe ciascuno, come l'emblema dell'isola di Man, che evidentemente rappresentano gli anni di tre stagioni durante i quali il figlio di Efesto poteva regnare sull'isola di Lemno. E ancora, il cosiddetto giudizio di Paride, dove un eroe è invitato a giudicare la bellezza di tre dee rivali per poi donare una mela alla più bella, rispecchia un'antica situazione rituale già superata ai tempi di Omero e di Esiodo. Le tre dee sono la dea Trina, e cioè Atena la fanciulla, Afrodite la ninfa ed Era la vegliarda, e Afrodite offre a Paride la mela anziché riceverla dalle sue mani. Codesta mela, che simboleggia l'amore della dea ottenuto a prezzo della vita, sarà il lasciapassare di Paride per i campi Elisi, il giardino di mele dell'Occidente, dove sono ammesse soltanto le anime degli eroi. Episodi analoghi si ritrovano spesso tanto nelle leggende irlandesi e gallesi quanto nella leggenda di Eracle e delle Esperidi. Ed Eva, la madre di tutti i viventi, donò una mela a Adamo. Così la Nemesi, dea del sacro bosco che nel mito di epoca più tarda divenne simbolo della vendetta divina sui re troppo arditi, regge un ramo carico di mele, dono per gli eroi. Tutti i paradisi dell'età del bronzo sono isole giardini. Paradiso, infatti, significa giardino. La seria analisi dei miti deve iniziare con lo studio dell'archeologia, della storia e delle religioni comparate e non nel gabinetto di consultazione di uno psichiatra. Benché i seguaci di Jung sostengano che i miti sono rivelazioni originali della psiche precosciente, involontarie affermazioni di ciò che avviene nell'inconscio, la mitologia greca nel suo contenuto non era più misteriosa dei manifesti elettorali di oggi e si sviluppò per lo più in territori legati da stretti rapporti politici con Creta minoica, cioè con un paese tanto evoluto da avere palazzi a quattro piani con impianti igienici, porte con serrature che paiono moderne, marchi di fabbrica registrati, un sistema controllato di pesi e misure e un calendario fondato su attente osservazioni astronomiche. Ho voluto riunire in un racconto armonico tutti gli elementi sparsi di ogni singolo mito, arricchito da tutte le varianti poco note che potevano aiutare a chiarirne il significato, e ho tentato di rispondere, per quanto mi fosse possibile, a tutti gli interrogativi che potevano sorgere nel campo antropologico o storico. Si tratta, e me ne rendo conto, di un compito troppo ambizioso perché un mitologo possa pensare di venirne a capo da solo, sia pure lavorando tenacemente a lungo. Gli errori sono inevitabili. Mi si permetta di sottolineare il fatto che tutto quanto si può dire a proposito della religione o dei riti mediterranei dell'epoca precedente l'uso della scrittura è puramente congetturale. Ciò nonostante, da quando questo libro fu pubblicato per la prima volta nel 1955, trovai nell'opera di E. Meyerowitz, Akan Cosmological Drama, Faber and Faber, confortanti analogie con lo sviluppo sociale e religioso da me delineato. Il popolo Akan si formò dall'unione di emigranti libico-berberi, cugini degli abitanti preellenici della Grecia, giunti dalle oasi sahariane con negri del fiume Niger. Nell'undicesimo secolo avanti Cristo, essi si spinsero ancora più a sud di Timbuktu, nella zona dell'odierno Ghana. Tra questo popolo troviamo ancora oggi quattro differenti tipi di culto. Nel più primitivo la luna è venerata come la suprema triplice dea Ngame, palesemente identica alla libica Neith, alla cartaginese Tanit, alla anata cananea e all'Atena della Grecia più antica. Si dice che Ngame abbia creato coi propri sforzi i corpi celesti e che abbia infuso la vita nei corpi inerti di uomini e animali, colpendoli con magiche frecce scoccate dal suo arco. Si dice anche che essa assuma l'aspetto di colei che uccide, come accadeva alla dea luna Artemide. Si suppone che una principessa di stirpe reale possa, in periodi indeterminati, subire il magico influsso di Ngame e generare una divinità tribale che si stabilisce in un santuario e guida un gruppo di emigranti in una nuova regione. Codesta donna diventa una regina madre, capo militare, giudice e grande sacerdotessa della colonia da lei fondata. La divinità, frattanto, si è palesata come un totem animale protetto da un severo tabù, che cade soltanto in occasione dell'annuale caccia seguita dal sacrificio di un solo esemplare della specie. Ciò getta una nuova luce sull'annuale caccia alla civetta compiuta dai Pelasgi ad Atene. Si formano allora stati, composti di una federazione di tribù e la divinità tribale più potente diventa il dio dello stato. Il secondo tipo di culto indica una comunione degli Akan con i sudanesi adoratori del dio padre, Odo Mankoma, che sosteneva di aver creato da solo l'universo, Costoro pare erano guidati da comandanti di sesso maschile eletti tra il popolo e avevano adottato la settimana sumerica di 7 giorni. In un mito che segna una specie di compromesso, si dice ora che Ngame abbia infuso la vita nella inerte creazione di Odomankoma e ogni divinità tribale diventa una delle 7 potenze planetarie. Queste potenze planetarie, come avevo supposto che fosse già accaduto in Grecia quando il culto dei titani fu introdotto dall'Est, formano coppie di maschio e femmina. La regina madre dello Stato, come rappresentante di Ngame, si unisce ogni anno in matrimonio sacro con il rappresentante di Odomankoma, cioè con l'amante da lei scelto che, quando l'anno volge al termine, i sacerdoti uccidono e scorticano, come pare accadesse anche tra i greci. Nel terzo tipo di culto l'amante della regina madre diventa re ed è venerato come la personificazione maschile della luna, corrispondente al dio fenicio Baal Aman. Un fanciullo eletto re per burla muore ogni anno invece sua. La regina madre delega allora i poteri esecutivi a un ministro e si occupa soltanto dei riti della fertilizzazione. Nel quarto tipo di culto il re, che ha ottenuto l'omaggio di alcuni sovrani di minore importanza, rinnega la sua personificazione di dio luna e si proclama dio sole alla maniera egizia. Sebbene continui a celebrare ogni anno il matrimonio sacro, si libera dalla dipendenza dalla luna. A questo punto il matrimonio patriarcale si sostituisce al matrimonio matriarcale e le tribù venerano antenati di sesso maschile come avvenne in Grecia, sebbene là il culto del sole non abbia mai soppiantato il culto del dio tuono. Presso gli Akan, un nuovo mito aggiunto a quelli già esistenti sottolinea i cambiamenti del rituale di corte. Così, se il re è nominato portiere reale e l'importanza della sua nuova funzione viene consacrata dal matrimonio con una principessa, si annuncia che un divino portiere celeste ha fatto la stessa cosa. È probabile che il matrimonio di Eracle con la dea Ebe e la sua nomina a portiere di Zeus rispecchino un analogo avvenimento verificatosi alla corte micenea. E i divini banchetti sull'Olimpo corrispondono ad analoghe celebrazioni svoltesi a Olimpia sotto il duplice patrocinio del gran re di Micene e della grande sacerdotessa argiva di Era. Esprimo la mia profonda gratitudine a Janet Seymour Smith e a Kenneth Gay che mi hanno aiutato a dare forma a questo libro, a Peter e a Lerge Green che hanno letto i primi capitoli, a Frank Seymour Smith che mi ha inviato da Londra rarissimi testi greci e latini e ai molti amici che mi hanno aiutato a correggere la prima edizione. Robert Graves, Deia, Maiorca. I miti greci. Capitolo primo. Il mito pelasgico della creazione. All'inizio, Eurinome, dea di tutte le cose, emerse nuda dal caos e non trovò nulla di solido per posarvi i piedi. Divise allora il mare dal cielo e intrecciò sola una danza sulle onde. Sempre danzando si diresse verso sud e il vento che turbinava alle sue spalle le parve qualcosa di nuovo e di distinto. Pensò dunque di iniziare con lui l'opera della creazione. Si voltò all'improvviso, afferrò codesto vento del nord e lo soffregò tra le mani, ed ecco apparire il gran serpente Ofione. Eurinome danzava per scaldarsi, danzava con ritmo sempre più selvaggio, finché Ofione, acceso di desiderio, avvolse nelle sue spire le membra della dea e a lei si accoppiò. Ora il vento del nord, detto anche Borea, è un vento fecondatore. Spesso, infatti, le cavalle, accarezzate dal suo soffio, concepiscono puledri senza l'aiuto di uno stallone. E così anche Eurinome rimase incinta. Subito essa, volando sul mare, prese la forma di una colomba e, a tempo debito, depose l'uovo universale. Per ordine della dea, Ofione si arrotolò 7 volte attorno all'uovo, finché questo si schiuse e ne uscirono tutte le cose esistenti, figlie di Eurinome, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, la terra con i suoi monti, con i suoi fiumi, con i suoi alberi e con le erbe e le creature viventi. Eurinome e Ofione si stabilirono sul monte Olimpo, ma ben presto Ofione irritò la dea perché si vantava di essere il creatore dell'universo. Eurinome allora lo colpì alla bocca con un calcio, gli spezzò tutti i denti e lo relegò nelle buie caverne sotterranee. La dea poi creò le 7 potenze planetarie e mise a capo di ciascuna di esse un titano e una titanessa, Tia e Iperione al sole, Febe e Atrante alla luna, Dione e Crio al pianeta Marte, Meti e Ceo al pianeta Mercurio, Temi ed Eurimedonte al pianeta Giove, Teti e Oceano a Venere, Rea e Crono al pianeta Saturno. Il primo uomo fu Pelasgo, capostipite dei Pelasgi. Egli emerse dal suolo d'Arcadia, subito seguito da altri uomini, ai quali Pelasgo insegnò come fabbricare capanne, come nutrirsi di ghiande e cucire tuniche di pelle di porco, simili a quelle che ancora indossa la gente del contado nell'Eubea e nella Focide. In questo complesso religioso arcaico non vi erano né dei né sacerdoti, ma soltanto una dea universale e le sue sacerdotesse. La donna infatti dominava l'uomo, sua vittima sgomenta, e poiché si pensava che la donna rimanesse incinta per le virtù fecondatrici del vento o per aver mangiato fagioli o inghiottito per caso un insetto, la paternità non veniva tenuta in nessun conto. La successione era matrilineare e si credeva che i serpenti fossero incarnazione dei morti. E un rinome, vagante in ampi spazi, era l'appellativo della dea nella sua epifania lunare. Il suo nome sumerico era Yahu, divina colomba, un epiteto che in seguito passò a Geova come creatore. Fu infatti una colomba che Marduk tagliò simbolicamente in due durante le feste babilonesi della primavera, quando inaugurò il nuovo ordine del mondo. Ofione o Borea è il serpente demiurgo del mito ebraico ed egiziano, e nell'arte arcaica mediterranea la dea è sempre raffigurata col serpente al suo fianco. I Pelasgi autoctoni, che pare pretendessero d'essere nati dai denti di Ofione, furono forse in origine il popolo delle neolitiche terracotte dipinte. Passarono dalla Palestina alla Grecia continentale verso il 3500 avanti Cristo, e gli antichi portatori della civiltà elladica, emigrati dall'Asia Minore attraverso le Cicladi, li trovarono insediati nel Peloponneso 700 anni dopo. Il termine Pelasgi venne poi usato in senso lato per indicare tutti gli abitanti pre-ellenici della Grecia. Secondo Euripide, i Pelasgi adottarono il nome di Danae, quando Danao, con le sue 50 figlie, giunse ad Argo. Le critiche alla loro condotta licenziosa si riferiscono probabilmente all'usanza pre-ellenica delle orgie erotiche. Nel passo citato più sopra, Strabone dice che coloro che vivevano nei pressi di Atene erano noti come pelargi, cicogne. Forse questo uccello era il loro totem. I titani, signori e le titanesse, ebbero i loro corrispondenti in certe divinità dell'antica astrologia babilonese e palestinese, preposta ai sette giorni della sacra settimana planetaria. E il loro culto fu forse introdotto in Grecia da una colonia cananea, o ittita, che si stabilì sull'istmo di Corinto nel secondo millennio prima di Cristo, oppure dagli antichi portatori della civiltà elladica. Ma quando il culto dei titani fu abolito in Grecia e la settimana di sette giorni cessò di figurare nel calendario ufficiale, certi autori elevarono il numero di tali divinità a 12, probabilmente per farlo corrispondere ai segni dello zodiaco. Esiodo, Apollodoro, Stefano di Bisanzio, Pausania e altri ci presentano gli elenchi dei loro nomi, tuttavia privi di fondamento. Nella mitologia babilonese gli dei planetari che regolavano il succedersi dei giorni della settimana, e cioè Samas, Sin, Nergal, Bel, Beltis e Ninib, erano tutti maschi salvo Beltis, dea dell'amore. Invece nella settimana germanica, nella quale i Celti avevano imitato lo schema dei popoli del Mediterraneo orientale, la domenica, il martedì e il venerdì dipendevano da titanesse contrapposte ai titani. A giudicare dal rango divino dei figli e delle figlie di Edo, in numero pari questi e quelle, e dal mito di Niobe, si può supporre che, quando questo schema religioso giunse dalla Palestina nella Grecia pre-ellenica, una titanessa fosse accoppiata a ogni titano, quasi a salvaguardare gli interessi della dea. In seguito il numero dei titani fu ridotto da 14 a un gruppo di 7, d'ambo i sessi. Le potenze planetarie erano le seguenti: il sole che presiedeva alla luce, la luna che presiedeva agli incantesimi, Marte alla crescita, Mercurio alla saggezza, Giove alla legge, Venere all'amore, Saturno alla pace. Gli astrologi greci dell'epoca classica seguirono lo schema dei babilonesi e aggiudicarono i pianeti a Elio, Selene, Ares, Ermete o Apollo, Zeus, Afrodite, Crono. Dai loro equivalenti latini citati più sopra derivano i nomi dei giorni della settimana in Francia, Italia e Spagna. Infine, per usare un linguaggio mitico, Zeus divorò i titani, incluso se stesso nella sua forma più antica. Gli ebrei di Gerusalemme, infatti, veneravano un dio trascendente che racchiudeva in sé tutte le potenze planetarie della settimana. Questa teoria è simboleggiata dal candelabro dalle sette braccia e dai sette pilastri della saggezza. Secondo Pausania, i sette pilastri planetari che si ergevano presso la tomba del cavallo a Sparta erano ornati secondo un modo antiquato, e ciò si ricollegava forse a quei riti egiziani introdotti in Grecia dai Pelasgi. Non si sa se gli ebrei abbiano preso a prestito questa teoria dagli egiziani o viceversa. Ma il cosiddetto Zeus eliopolitano di cui parla A.B. Cook nel suo Zeus era egiziano nell'aspetto. La guaina che avvolgeva il suo corpo era adorna nella parte anteriore dei busti delle sette potenze planetarie e, nella parte posteriore, dei busti delle altre divinità olimpiche. Una statuetta bronzea di questo dio fu trovata a Tortosa in Spagna, un'altra a Biblo in Fenicia. Su una stela marmorea di Marsiglia sono scolpiti sei busti di divinità planetarie e l'intera figura di Ermete, cui è data un'importanza maggiore, forse perché era ritenuto inventore dell'astronomia. Anche Giove a Roma fu proclamato dio trascendente da Quinto Valerio Sorano, benché a Roma la settimana non fosse venerata come a Marsiglia, a Biblo e probabilmente a Tortosa. In Grecia invece le potenze planetarie non prevalsero mai sul culto olimpico ufficiale, poiché venivano considerate non greche e dunque antipatriottiche. Aristofane fa dire a Trigalo che la luna e quel vecchio furfante del sole stanno tramando un complotto per far cadere la Grecia nelle mani dei barbari persiani. L'affermazione di Pausania che Pelasgo fu il primo uomo vivente conferma il sopravvivere della cultura neolitica in Arcadia fino all'epoca classica.